Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant. Tanto tempo che non parliamo più di nord e sud. Non ne parliamo più perché l'argomento e il dibattito è un po' uscito dall'attualità. Però forse vale la pena questa mattina di riprendere il discorso, c'è anche un'occasione per cui lo riprendiamo, ma più generalmente mi piace riprendere filo una trasmissione fortunata che facemmo un po' più di un anno fa, in cui parlammo di un libro dal titolo provocatorio Terroni. Era un libro di Pino Aprile che parlava e si faceva catalizzatore di tutto un sistema anche abbastanza sommerso, non molto visibile, di rivendicazione riguardo a una lettura risorgimentale dell'Unità d'Italia. Lo faceva proprio in occasione delle grandi commemorazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia. E scoprimmo in quell'occasione, era poco più di un anno fa, che esisteva un folto, organizzato, strutturato, motivato movimento d'opinione che riportava l'essere meridionali a un punto di valore. Sì, perché siamo abituati a considerare la meridionalità come un sinonimo, a volte, anzi molto spesso oggettivamente corroborato da fatti concreti, un sinonimo di malaffare, un sinonimo di disorganizzazione, un sinonimo di parassitismo. Poi, se applichiamo la meridionalità alla classe politica, abbiamo in mente dei modelli, oggi sembrano un po' lontani appannati, ma molto vicini nella memoria di quelli che hanno la mia età, di classe politica meridionale, legata appunto alla inefficienza, al clientelismo. Immaginiamo il De Mita di Nusco, immaginiamo tutta una serie di personaggi che potremmo fare un lunghissimo esempio, in tutte le satire, le commedie, nel cinema italiano degli anni 50, 60, 70, il politico per eccellenza sempre meridionale. Poi è accaduto qualcos'altro, poi c'è stato un altro modello, poi il nord si è fortemente imposto come linea, come pensiero, come modello. Il modello di cui stiamo vedendo adesso i cascami della fase ultima della decadenza, un modello molto nordista, molto nordico, fatto di efficienza, fatto di finanza, fatto di popolazioni dedite all'orgoglio della loro terra, basata sul lavoro, basata sulla fatica e via dicendo. Beh, oggi si sta tutto spappolando, tanto che il modello, la novità, i giovani rottamatori vengono dal centro Italia, il movimento del sindaco di Firenze Renzi, che è toscano, con quella paraculaggine tipica del centro Italia, vorrebbe ricreare ancora una nuova alternativa. Beh, oggi invece no, oggi parleremo di Terroni. Parleremo di Terroni perché Pino Aprile, a distanza di poco più di un anno dal suo libro che ha venduto 250.000 copie, penso sia stato forse il libro di saggi che ha venduto più copie in Italia negli ultimi anni, ha ripetuto la sua operazione, ha fatto un altro libro, Giù al Sud, perché i Terroni salveranno l'Italia, sempre PM edizione, che ho questa mattina fresco di stampa nelle mie mani. Pino Aprile, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. Ecco, Pino Aprile, questo libro li metto vicino, Terroni e Giù al Sud. Giù al Sud è il doppio come altezza di Terroni. E mi viene a pensare, questo è un libro scritto nel tour di presentazione del tuo primo libro. Tu andavi in giro per l'Italia, non solo per l'Italia, domani parte va negli Stati Uniti dove presenterete la versione americana di Terroni. Mi sorprende e mi diverte questo successo, ma se dal tour di questo libro è venuto un libro che è il doppio, dal tour di presentazione di questo libro verrà fuori un'enciclopedia. Ecco, perché c'era tanta terronaggine nascosta e desiderosa di essere rappresentata? Perché nessuno ci ha pensato prima a rappresentarla in un libro? Ma onestamente mi sono date delle risposte che non pretendo siano le risposte, sono quelle che ho trovato io, ed è che il Sud è poco interessante per questo paese, non fa notizia, non c'è attenzione, interesse per il Sud, perché è vista come una zona e persino una gente meno, tant'è che io dedico un capitolo in Terroni che è la costruzione dello stato di minorità dei meridionali, che poi si trasferisce, e che anzi è figlia di quella, nelle circostanze, cioè il Sud ha meno strade, praticamente quasi non ha ferrovie, ringraziamo pubblicamente l'amministratore delegato. Ha più delegato. Spazzatura, se vogliamo mettere, figuriamoci. Sì, ha meno di tutto. Si pensi solo che il Nord ha un aeroporto ogni 50 chilometri, uno di questi ci è costato dall'Italia. Il Sud interno, a parte come dire, la fascia costiera, non ha un aeroporto. C'è una zona abbandonata. L'intero Sud è l'unica macro-regione in Europa che non ha una banca. Quindi non c'è interesse, e non lo si racconta poco, non c'è interesse. Io, che pure mi interesso di questi temi, sono meridionale, ma questo non significa niente. Il meridionalismo l'hanno inventato i settentrionali, in particolare i lombardi. Cioè, eppure sono rimasto, forse io per primo, sorpreso dalla quantità e diversità di idee, persone, pulsioni, spunti che c'erano che al Sud e di cui non si sapeva niente. Quindi io stesso, come tante altre persone, siamo schiavi di un grandissimo stereotipo. Ripeto, vediamo molte volte corroborato dalle cronache, però vede il Sud come una regione in cui esiste una sorta di endemico senso di abbandono, di rilascio, di non presa di posizione di un futuro, ma semplicemente di un vivere alla giornata nella migliore delle maniere possibile. Poi c'è questo grande fenomeno, almeno alle nostre latitudini, di regioni radicalmente espropriate dalla malavita organizzata. Ecco, tu che immagino ti conosco come professionista, non abbia fatto un libro per creare artificialmente un sistema di pensiero che in realtà non esiste, come la Padania, che è una realtà inesistente. Ecco, non è che ho voluto creare la Terronia, però hai trovato, individuato e portato a luce degli elementi del Sud che non sapevamo che esistessero, perlomeno non ci eravamo mai capacitati, abbagliati e sovrastati da questa visione di aspetti drammatici o problematici. Sì, faccio qualche esempio. Il Sud è visibile soltanto per il suo peggio, mentre il Nord è visibile soltanto per il suo meglio. Il peggio del Nord è visto come un'anomalia in una norma positiva. Il meglio del Sud è visto come un'anomalia in una norma negativa. Faccio un esempio immediato. Tu hai ricordato prima i politici del Sud, infatti, assolutamente. E per esempio, fra i politici del Sud c'era gente come Aldo Moro, Sturzo, la Malfa, per comunque la si pensi, Scelba, cioè questi non sono mai ricordati come politici del Sud, ma Gava sì, Benita sì, eccetera. Alla stessa maniera il Sud viene ricordato, e vorrei vedere che non lo si facesse, per la mafia. Ecco, ora cos'è la consegna di intere regioni del Sud alla mafia? È un sistema di potere che risale a 150 anni fa. Il Sud è stato colonizzato, cioè, e ancora oggi è così. Cos'è una terra colonizzata? È una terra da cui è stato portato via una terra, una popolazione, tutto quello che vale qualcosa, fosse il petrolio o l'oro o le fabbriche distrutte, come è successo al Sud quando è stato unificato all'Italia. E queste popolazioni, queste terre poi restano attaccate, diciamo, solo al posto pubblico, che infatti diventa ipertrofica la pubblica amministrazione, con ciò comportando anche ricattabilità e aumento esponenziale della corruzione. E la pubblica assistenza succede a tutte le colonie o ex colonie, che sviluppano anche potenti mafie, perché la violenza è l'unica industria lasciata sul posto. E le mafie diventano il braccio armato ma inconfessabile di un sistema di potere, economia del Nord e mafia del Sud. Allora, sentiamo cosa ne dice il nostro pubblico. 800 24 00 24. Questa mattina parleremo con Pino Aprile, che è diventato il portabandiera più strutturato, con più temi a sua disposizione, con un maggiore approfondimento. Ripeto, il tour di presentazione di un libro è stato un'occasione per fare un'analisi minuziosa, giornalistica e capillare, che altrimenti non avrebbe mai avuto tempo, diciamo poco prima, nessun giornalista di fare in maniera così dettagliata. Cioè girare in una settimana 4, 5, 6, 7 città, perché bisogna presentare il libro, significa, sono l'occhio allenato, prendere contatto con 4-5 micro realtà e quindi raccontarle in questo libro. Quindi questo è un libro che si autoproduce continuamente. Quindi 800240024, cosa ne pensate voi? È vero che secondo quello che dice Pino Aprile saranno i terroni a salvare l'Italia? 800240024. Alberto, ho una buona e una cattiva notizia. Sono sospeso, vero? Peggio, trasferito al sud. Al sud, tipo Bologna? No, Bologna, sud, sud. Non mi dire Roma, sai che non amo Roma. No, non ti preoccupare, non a Roma, molto più a sud. Sicilia? No, no, prima della Sicilia c'è la Campania. Sei stato trasferito vicino a Napoli. A Napoli? Ma è spaventoso, Mario. Cominci lunedì. Ma dove mi mandano esattamente? A Castellabate. Ci resterai 2 anni. 2 anni? Minimo. 2 anni a Napoli, Mario? Senti, Alberto, o è sud o è licenziamento per gravi responsabilità. 2 anni a Napoli, io muoio. Adesso, vai, vai. Mi dispiace. Ma come lo dico a Silvia? Vai. Mario. Vai, adesso. No, non puoi farmi questo. Questo è un film divertente, l'avrete visto perché in questi giorni l'hanno dato abbastanza spesso nella TV satellitare, Benvenuti al Sud, è un remake italiano di un film francese molto grazioso, il 2008, Giù al Nord, la storia è la stessa, è un impiegato che da una regione del nord viene trasferito a una regione del sud. È un po' come Massimo Boldi quando va milanista, va a giocare a Roma, a vedere la partita della Roma e si trova a dover passare una giornata tra tifosi romanisti, era pieno di stereotipi, va in questo paese e lui si trova improvvisamente i primi giorni soffocato, ucciso, impossibilitato a vivere da questi stereotipi. La prima notte che va ospite a casa di un suo dipendente, era il direttore di un ufficio postale, nasconde il portafogli dentro un buco nel muro, in realtà era la stufa, se lo torna al piano di sotto. Poi sarà talmente bene, entra talmente in sintonia con questa realtà, che il suo problema è tenersi lontana la famiglia che stava al nord, e quindi comincia a inventare una realtà drammatica. Quando verrà la moglie a trovarlo al sud, insceneranno la rappresentazione concreta di tutti questi stereotipi per convincere la signora che lui sta in una situazione drammatica, incresciosa, e sconsigliarla di rimanere giù anche lei. Sergio, buongiorno. Ecco il primo. Buongiorno. Non lo so, io francamente sono un po' stupito da questo discorso del fatto di voler responsabilizzare il nord per quelle che sono le manchevolezze del sud, e dire assolutamente il sud viene ricordato per le cose. Lei da che parte sta, Sergio? A che parte sta? Ma io non sto da nessuna parte, io ho lavorato in maniera eccezionale con dei ragazzi del sud e sono un sostenitore della qualità dei professionisti del sud. Quando il sud vuole comportarsi in maniera differente da come invece vediamo continuamente, sembra quasi, e lo dico con un estremo rammarico, che tutta la creatività di questa gente, che è formidabile, sia usata quotidianamente per trovare escamotage per non lo so io, per non volersi impegnare, sembra quasi che vogliano a riaffermare il fatto di avere l'illegalità, diciamo, come stile di vita. E questo è assurdo. Sergio, le risponderà Pino Aprile, io dico il mio punto di vista. Ciò che realmente manca in questo momento, in questa fase, in questo paese, lo dimostra il successo assolutamente insperato. È un libro scritto molto bene e divertente, non avrei mai immaginato diventasse il libro, il saggio più letto in Italia, un saggio che si intitola Terroni. Significa che poi c'è qualcosa che noi non consideriamo e non valutiamo. Significa che manca probabilmente una sorta di idea di coordinamento, idea di rappresentazione concreta in delle persone, in un movimento, non so bene in cosa, non è il mio campo specifico, però il Sud, se è così, è perché nessuno lo rappresenta in maniera diversa. Pino Aprile l'ha rappresentato in un libro, è diventato un libro che immagino potrebbe diventare il testo sacro di un movimento politico. Pino, quante volte ti hanno chiesto di metterti in politica negli ultimi mesi? Ma continuano a chiedermelo da tutte le parti, da destra, da centro, cioè altro che Renzi, sinistra. Se tu ti metti in piazza adesso porteresti dietro mezza Italia probabilmente. Ma io ovviamente ringrazio chi mi propone queste cose, perché mi dimostra comunque dal suo modo di fare, di vedere, stima e attenzione, ma insomma ho detto che preferisco morire giornalista. Rispetto a quello che diceva l'ascoltatore Sergio. Io capisco, conosco questa obiezione di onesti Non voglio dire settentrionali, meridionali, perché ricadiamo negli stereotipi, perché questo tipo di obiezione non è solo settentrionale, è italiana, del nord e del sud. La verità è che questo tipo di spaccatura nel paese non è una spaccatura, come dire, ideale, ideologica, sentimentale, è nei fatti. Cioè, un paese unito, io per spiegarlo uso dire, se vi vendo e vi porto in Francia, in Germania, che fino a 20 anni fa erano due paesi lontani anni luce l'uno dall'altro, e ci mettiamo su un treno, entriamo in un ospedale, andiamo su un'autostrada, voi saprete dirmi che siamo in Francia, ma non mi saprete dire se del nord o del sud. E saprete dirmi che siamo in Germania, ma non mi saprete dire se dell'ovest o dell'est. In Italia non puoi considerare un paese unico trattato alla stessa maniera da uno Stato che sia equo verso tutte le sue regioni, uno Stato dove si percorrono 400 chilometri da Milano a Firenze in 2 ore, e adesso l'immaginifico amministratore delegato delle ferrovie dice che ridurrà il tempo da Milano a Roma a 2 ore, non a 3. E poi vai da Catania a Trapani in 15 ore e mezzo. E l'immaginifico amministratore delegato delle ferrovie dice che taglia i rami secchi. E ti credo. Chi vuoi che prenda questi treni? Per cui i rami vengono fatti seccare e poi li tagliano. In 70 anni al sud sono stati tagliati 1000 chilometri di ferrovie. E la differenza di infrastrutture, di opportunità, sono le circostanze che fanno apparire meno gli uomini. Lo dice Amartya Sen, non Pino Aprile. Un uomo è quel che le circostanze gli consentono di essere. Però mi darai ragione sul fatto, è quello che sto pensando questa mattina. Tu in questo momento sei, scusami il paragone, il miglio della Terronia. Ma se non viene un boss della Terronia che dice oggi porto queste istanze politicamente all'attenzione di tutti, rimarranno tantissimi bei libri che tu continuerai a scrivere fino a che avrai tempo e voglia, ma non diventerà mai qualcosa di concreto l'idea, questa idea del Terrone che salverà l'Italia. Ecco, e perché dico i Terroni salveranno l'Italia? Mi fermo alle due tue citazioni, Miglio, Bossi. C'è una piccola differenza. Miglio era e si dichiarava pubblicamente razzista. Bossi, nella sua biografia, annuncia una sua politica razzista e tutto quello che fa lo dimostra. In nessun paese del mondo rimane al governo un ministro che chiama porci dei suoi connazionali, o rimane al governo un ministro che, come Calderoli, chiama topi da derattizzare, come Goebbels diceva degli ebrei, lo ha detto dei napoletani. O uno che chiama i napoletani e casertani cancro. Il cancro è una malattia che viene bruciata, tagliata e buttata via. Sono tutti ancora al governo. È un paese di pazzi, un paese che si tiene questa gente al governo. Ora, ma ragione di più che può esserci un passo ma diverso. Ma non può esserci un razzismo da parte no, del no, un passo sud. Diverso. Ah, sì. Io dicevo, è l'unica rappresentazione che abbiamo in cui l'Italia, dopo dal Risorgimento in poi, si è creata un'istanza, se vuoi artificiale, se vuoi inventata, però concretamente con un peso politico legato al fatto dell'appartenenza locale. Non esisteva prima. No, esisteva. Tant'è che già quando è stata fatta l'Italia... E se si vanno a leggere delle cose che non vengono riportate in libri di storia, ecco perché sembrano nuove. I meridionali vengono descritti come selvaggi, peggio che gli ottentotti. Andiamo a fare esperienza d'Africa, scrivevano nell'andare a fare il Risorgimento, a unire l'Italia. Meno male. Tant'è che un grande del nostro Risorgimento, cioè immediato post Risorgimento, Ettore Ciccotti, parlava di antisemitismo verso i meridionali, una sorta che è tutto quello che leggiamo oggi detto da Bosigo, era già detto allora in maniera persino peggiore. Tant'è che lo stesso Cavour, Cialdini dicevano: ma avete dei problemi? Fucilate, c'era l'unica soluzione. Sentiamo Elia, buongiorno. Buongiorno, io sono la classica interpretazione di un meridionale che, nonostante è nato al nord, io sono nato a Sanremo, ho sempre percepito nei miei confronti un pregiudizio notevole. Io mi sono diplomato, laureato, ho avuto degli incarichi importanti nella mia vita, ma ho sempre notato una diffidenza nei confronti, perché avendo anche un nome altisonante, io di cognome mi chiamo Sciacca, quindi siciliano, e 20 anni fa avevano fatto un sceneggiato in televisione dove rappresentavano la famiglia Sciacca come mafiosi, eccetera. Non le posso dire cos'è successo. Per dirle che è dura morire. Beh, io mi chiamo Nicoletti a Roma, guardi che ho avuto anche io i miei problemi. No, per dirle, per farle capire che c'è un pregiudizio, che nonostante si scriveranno dei libri, eccetera, io ho lavorato anche negli Stati Uniti, e quando arrivavo lì la prima cosa che mi chiedevano, dicevano se ero del nord o del sud, sono stato in Inghilterra, in Germania, c'è una diffidenza soprattutto verso l'italiano, che sia chiaro, ma in modo maggiore verso il meridionale, è considerato proprio una persona poco affidabile, non c'è niente da fare, ci vorranno, non dico secoli, ma molti decenni per poter sistemare le cose, naturalmente è una mia visione, però l'unica cosa che mi sento di dire, che ho lavorato tantissimi anni al nord negli Stati Uniti, gli ultimi anni li ho fatti giù in meridione, e devo dire, devo ammettere che c'è a livello umanitario, c'è qualcosa di positivo, molto umano, positivo. Diciamo, umanitario. No, sembra. Veramente, veramente. Una cosa che lei veramente si trova a suo agio. L'ultima cosa, non so se si ricorda la trasmissione di Saviano, sì, quando si era permesso di dire che l'Andrangheta dal nord era dominante, Maroni d'autorità era andato in televisione a dire che non era vero. Dopo pochi giorni l'hanno sputtanato tutti perché c'è una infiltrazione. Non la voglio interrompere, però sono già un minuto fuori rispetto alle informazioni. Se lei pensa di dire altro, la tengo in linea e riprendiamo fra un minuto per le informazioni della borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Buongiorno, patente libretto. Scusi, andavo troppo veloce, vero? Troppo piano, Dio buono, troppo piano. Non vede che mi rallenta il flusso discensionale? Ero sovrappensiero, sto andando verso Napoli. A Napoli? Sì, per lavoro. Sono stato trasferito lì. Non si preoccupi. La capisco, io ho un fratello in Kosovo. Ma va? Vada, vada. E stai attento alla macchina. E stai attento a lei. Tra 300 metri, tenere la sinistra e prendere l'autostrada A3, Salerno-Reggio Calabria. Aspetta. Scusi, sì. Manca molto per Castellabate? Ah, niente, credo che si saranno arragliate 3-4-5 macchine, non si è capito niente. Comunque, guardi, la colpa è sempre sta chiave che è stata, che non si capisce mai, è sempre andata. Chissà quando cazzo arriviamo, ma... Qua è sempre il nostro direttore dell'ufficio postale Gianni Biso, che sta andando nella sua nuova destinazione in punizione al sud, già la ferma la poliziotta e dice lei va verso Napoli, io ho un fratello in Kosovo, zona di guerra, poi imbocca la fatidica Salerno Reggio Calabria e comincia a entrare nel più profondo dei suoi incubi, che poi invece diventa per lui un'occasione importante. Noi questa mattina stiamo parlando di Terroni con il più grande esperto e padre spirituale della terronia portata come categoria dell'esistenza, che è Pino Aprile, che ha scritto il suo nuovo libro Giù al Sud, perché i terroni salveranno l'Italia, edizione PM, che segue appunto al libro di un anno fa Terroni, che ha venduto 250.000 copie. Noi ci chiediamo assieme a Pino Aprile come mai improvvisamente ci si rende conto che in Italia esiste un movimento articolato, strutturato, intellettualmente corroborato, territorialmente diversificato al sud, che esprime una realtà di cui abbiamo poche notizie. Sentiamo velocemente tre ascoltatori, poi entriamo in merito con Pino Aprile, che è qui in studio, rispetto a questa domanda. Carlo, velocemente. Sì, buongiorno. Secondo me bisogna un po' disboscare un qualunquismo, viene passato per qualunquismo tutte alcune verità che sono secondo me ineludibili. I politici per a suo tempo per accaparrarsi i voti, c'è sempre questa tendenza a giustificare il sud con la storia, che è stato dimenticato. Noi abbiamo avuto i migranti che sono andati dal Friuli e dal sud e si sono comportati all'estero diversamente. Abbiamo avuto terremoti al nord come al sud e le reazioni sono state inequivocate, differenti. Ci dobbiamo chiedere anche perché è nata la Lega, perché non è che la Lega siano così dei pazzi, dei razzisti. C'è questa tendenza, cioè qualsiasi impresa è difficile farla al sud, è obiettivamente una mentalità differente, il clientelismo, quindi noi dobbiamo pensare. Basti pensare a Napoli, non si può dire sempre la classe politica. Sì, Carlo, la interrompo soltanto perché questo, sì, no, no, cioè, questa è una parte del problema, però quello che mi interessa, però, questa mattina è non continuare sul piagnisteo o voi siete, noi siamo. Voglio capire cosa sta emergendo di nuovo al sud. Siccome se ne è accorto Pino Aprile andando in giro raccontando, e siccome il suo racconto ha un concreto e percepibile successo di vendita, sul libro vende, vuol dire che la gente lo compra, e se lo compra vuol dire che lo legge, e se lo legge vuol dire che certe idee circolano, e se idee circolano vuol dire che hanno un terreno fertile per attecchire. Massimiliano. Sono Massimiliano, buongiorno a tutti. Io parto da un presupposto storico, mi collego al suo ospite che ha detto il sud è stato colonizzato. Diciamo, io penso sotto l'aspetto storico che l'Italia è nata male, nord e sud, nella stessa maniera. Il sud era avanzatissimo, perché Franceschiello, l'ultimo re delle due Sicilie, è stato il primo a fare il treno, era un stato ricchissimo naturalmente. Purtroppo, ma possiamo fare un passo avanti, sennò continuiamo a parlare ancora una volta dei Borboni. Tutti i nodi vengono al pettine, sì, naturalmente. Se l'Unione, se 150 l'Italia anni è nata sono male, tanti, sì. Sì. Se l'Italia Unita è nata male, naturalmente prima o dopo scoppia da qualche parte, scoppia al sud, scoppia al nord, sì, scoppia con il caos, con i referendum truffa che sono stati fatti al nord, al vabbè, sud. È chiaro, Massimiliano, è chiaro. No, no, è molto chiaro. Prima o dopo il nazionalismo in Italia non c'è, perché hanno fatto l'Italia, come diceva uno, dobbiamo fare gli italiani dopo 150 anni devono ancora essere fatti. Questo ce ne stiamo, il nazionalismo che non abbiamo noi, prima ha detto lei, se io vado in Francia, io vado in Germania, non sento se sono al nord, al sud, all'est, sì, all'ovest. E l'Italia è nata male, punto. Francesco II diceva di fare un'Italia federale, ma lo diceva nella metà dell'Ottocento. No, ci fermiamo un attimo, Massimiliano, sennò è la trasmissione che abbiamo fatto un anno fa, questa, di capire sulle ormai è stato, il risorgimento c'è stato, l'Italia bene o male è stata fatta, sono passati 150 anni. Voglio capire oggi cosa accada. Roberto. Sì, buongiorno. Volevo domandare al suo ospite, vede più in prospettiva un'Italia che diventa come il Sud, come noi la percepiamo oggi, da quello che poi continuiamo a ridirci da 5.000, in 5.000 trasmissioni differenti, cioè un'evidente, diciamo, deriva, tra virgolette, sudista, o vede un Sud più in prospettiva verso l'Europa? Perché ormai comunque bisogna anche considerare che siamo in un contesto europeo, perciò diventeremo più sempre come il sud o diventeremo più... O siamo più in un contesto europeo, sì, però dietro queste parole, sì, ci stiamo rendendo conto in realtà quanti fuochi fatui ci fossero, la moneta unica, cominciamo a vedere che è un problema che sta cominciando, almeno a essere portato su un tavolo in maniera anche critica. L'idea dell'Europa... Sì, ci siamo tutti affascinati dall'Europa, però io non è che esprimo un'opinione qua, ma sto ponendo sul piatto delle perplessità, sulle idee ci si ritorna, questo contesto europeo a cui dobbiamo confrontarci, ancora mi pare che abbiamo dei confronti interni da fare molto più radicali e molto più urgenti. Pino Aprile, ti ho fatto sentire tre telefonate, andiamo al punto, vorrei parlare di attualità. So che è un argomento a te caro, ma vorrei per un attimo lasciare da parte il risorgimento fallito e mancato, sennò parleremo di Mazzini e di Cavour ancora fra 50 anni. Mi fai un'analisi per specifici territoriali del sud che tu conosci, che in questo momento su cui sta accadendo qualcosa che non sappiamo, di cui non ci rendiamo conto, perché? Perché non è all'urgenza delle cronache. Sì, senz'altro. Ci farei proprio una premessa di un rigo e mezzo, per non dico giustificare, ma almeno spiegare perché, come hai visto negli interventi, alla fine si va a cadere sempre al risorgimento. Cioè. Perché? Perché quelle storture non sono mai state risolte, addrizzate. Per cui aveva ragione quell'ascoltatore nel dire che alla fine si tiri il calcio al sasso, ma prima o poi ci vai a sbattere, perché non puoi non affrontarlo. E questo è quello che sta succedendo. Quello che mi ha colpito in maniera particolare è davvero interessante, forse avrei dovuto capirlo prima, se vuoi, è che ogni regione al sud sta elaborando questi sentimenti e, se vogliamo, anche risentimenti e queste speranze di addrizzare il futuro secondo le proprie, diciamo, tradizioni, la propria storia. Per esempio in Sicilia questo rinascente interesse all'identità, al meridione, è diventato subito politica. non soltanto con la creazione di un movimento per l'autonomia, quello diretto da Raffaele Lombardo, che è diventato presidente della sua regione. Guarda che questo succede dopo 60 anni e ci siamo dimenticati che per quell'autonomia la Sicilia ha fatto una guerra con l'Italia, cioè l'esercito italiano ha avuto persino una battaglia campale contro l'esercito dell'Elis siciliano. Ci sono stati da 100 a 200 morti nell'ambito dei due anni di guerra. Ci sono state torture, paesi conquistati e riconquistati, eccetera. E invece attraverso un movimento politico un siciliano prende la presidenza della sua regione in funzione, come dire, locale, regionale. Mentre in Puglia, per esempio, che è la patria dei vari Salvemini e Tommaso Fiore, eccetera, questi sentimenti, queste pulsioni, vorrei chiamarle, vengono poste in materia, cioè in modo, come dire, analitico. Tu hai nell'economia un Gianfranco Viesti, che io ritengo il migliore che ci sia in Italia, oppure il sociologo Franco Cassano, che è davvero, lui con il, si può dire, l'ideologo del pensiero meridionalista. In Campania, dove hai il tutto di tutto, ma in particolare per la sua storia, ovviamente era la regione della capitale, eccetera, viene tutto trasposto in funzione artistica. Penso a Eugenio Bennato, Martone, lo stesso Squitieri con il film e li chiamarono Briganti. E la Calabria? La Calabria è il fenomeno più interessante. Perché? Ma permettimi una piccola parentesi. L'attenzione è tale, per esempio, che da Terroni mi è stato chiesto, non li conoscevo, mi hanno cercato loro, Roberto D'Alessandro, che è il fondatore del Teatro dei Piccoli, ma è calabrese, e Mimmo Cavallo, che forse ricorderai, 30 anni fa, Siamo Meridionali, sì. Ecco, hanno fatto una trasposizione teatrale di Terroni che ora va in giro per l'Italia, ma devi vedere cosa succede nei teatri quando questi due rappresentano Terroni. Chiudo la parentesi, perché il fenomeno più interessante è la Calabria. Io dico, perché i Terroni salveranno l'Italia? Perché in un paese squilibrato chi sta sotto ha più interesse a farlo, all'equità. La Calabria è la regione che sta peggio di tutti, mentre tutto il resto del sud fu scoperto da forestieri, diciamo, la Puglia di Ernesto De Martino, Benfield per la Basilicata. In Calabria l'antropologia è tutta calabrese, cioè c'è un boom di antropologi calabresi che studiano il proprio paese, cioè c'è una fame di sé che non si era mai vista. Luigi Lombardi Satriani mi ha detto, guarda, è un'enormità, non si è mai visto niente del genere. Vito Teti, altro antropologo calabrese bravissimo, ha sviluppato una antropologia del restare, che ha chiamato con uno splendido neologismo restanza, per spiegare la somma di questi tanti giovani coltissimi, preparati, laureati calabresi che hanno opportunità di lavorare all'estero, al nord, e rifiutano per restare nel loro paese. Ecco, è in Calabria sorto il movimento che io ritengo più interessante. Io resto in Calabria. Io conosco l'Università di Cosenza, eccellenza del campo dell'informatica, della ricerca nelle nuove tecnologie, rare in Italia, però rimangono lì, non vanno in giro, vanno a dare un'occhiata, poi tornano tutti lì. Ci fermiamo un istante per le informazioni del traffico. 800 24 00 24. I Terroni salveranno l'Italia? On s'est connu quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ehi, hey, sei del sud e sei meno, non hai un lavoro e sei meno, non hai le strade e sei meno, e non la paghi e sei meno, non hai ospedali e sei meno, le ferrovie sei meno, oh frate mia frate, e la chiamarono la mulo pedonale. Ma quanto traffico di gente, c'era persino la pista laterale per carri agricoli. Questo è Mimmo Cavallo che canta la canzone sulla Salerno-Reggio Calabria, La mulo pedonale, che tratta proprio dallo spettacolo Terroni, che viene da una contaminazione con il libro di Pino Aprile Terroni. Tupino, dopodomani vai in America a presentare il tuo libro tradotto in inglese. Il titolo è sempre Terroni? Sì, perché non si è trovato il modo di tradurre l'espressione, tant'è che il direttore dell'Istituto di Italianistica se ne scusa con i lettori e dice, guardate, esiste un'espressione che può assomigliare in America, più o meno significa palle di terra, però non è regionalizzato, non ha latitudine, vale per tutti. E mentre Terroni in Italia ha una connotazione geografica. Ma chi interessa questo libro negli Stati Uniti? Per esempio a molti italoamericani. C'è stato uno di loro, si chiama Anthony Quattrone, che lo scoprì perché aveva scritto una recensione di Terroni che obiettivamente mi imbarazzava per come era, come dire, era una bella recensione, per cui lo cercai per ringraziarlo e lui mi disse no, sono io che devo ringraziare perché ho capito, perché chiamandomi Quattrone mio padre e io siamo nati a New York. E sono soprattutto italo-americani, ma non solo, perché c'è interesse, mi dicono, molto interesse proprio per come si è formata l'America e gli Stati Uniti per questi tempi. Più parli e più si rafforza la mia domanda. Si sta creando, in maniera non percepita consapevolmente dal paese, dagli organi di informazione, per niente dalla politica, che è tutta orientata verso oggi altre tecniche di sopravvivenza spicciola, un movimento concreto, reale, che mi sembra che abbia un coordinamento. A differenza del grande movimento del Nord, che per quanto, come detto giustamente, è innegabile, abbia basi scellerate, razziste e tutto, comunque ha rappresentato anche persone che sentivano fortemente motivate a dare un cambio alla politica e via dicendo. Ecco, la differenza è che il movimento del Sud è già detto regionalizzato. Ogni regione ha scelto un suo specifico, la Calabria va nella ricerca scientifico-antropologica, la Sicilia approfondisce la politica, la Campania approfondisce la cultura. Quindi qualcosa è reale, non è una tua invenzione, una tua allucinazione, perché sennò il tuo libro te lo saresti distribuito a Natale ai parenti, agli amici, come fanno tanti scrittori in erba. Ecco, cosa manca? A mio avviso, con la poca esperienza che ho, la poca conoscenza delle cose politiche di questo paese, manca il leader, manca l'uomo. Un uomo serve, tu dici non servirà, non c'è bisogno, non ci saranno, ma tutto questo rimane soltanto letteratura e chiacchiere da conferenza se non si traduce in politica concreta e reale. E perché si traduca serve qualcuno che si faccia portatore di tutto questo movimento. A te l'avranno chiesto, hai detto voglio fare il giornalista e ti posso anche capire, ma vedi all'orizzonte qualcuno possibilmente aggiudicabile a questo ruolo? Non ne vedo uno, ne vedo diversi e non è detto che chi poi possa fare questo sia fra quelli che ci stanno adesso. Faccio un esempio. C'era il lettore di Terroni, ma non c'era Terroni. Lo abbiamo scoperto dopo l'uscita di Terroni. Ora sappiamo che c'è l'humus perché tutto questo diventi proposta politica, ma non abbiamo ancora ben individuato, non abbiamo visto chi farà la sintesi di questo. Questo qual è? Cioè cosa c'è da sintetizzare? Noi abbiamo delle proposte politiche di varissimo tipo, cioè proprio vario tipo. Per esempio, ripeto, c'è Raffaele Lombardo con l'MPA in Sicilia, ma in Sicilia è sorto dalla Sicilia, perché adesso hanno creato una struttura che si chiama Grande Sud con Poli Bortone, io Sud di De Puglia e Iannaccone, un altro di noi. Non è proprio una, il primo pelo, diciamo la verità. Dico la verità, io rispetto tutti, però quando sento che lo scopo di questo movimento è bilanciare a Sud nel governo la Lega... E io mi ricordo che Micichè è stato ministro allo sviluppo, vice ministro all'economia, ha avuto la delega per il mezzogiorno, i rapporti con le regioni, con l'Europa e quella con il comitato interministeriale prezzi. La mia domanda è: cos'altro volevi dici di voler fare adesso? Però per carità, stiamo a vedere, vediamo cosa fanno. Ma per esempio a sinistra nel PD hai un fenomeno, perché tale è, come Michele Emiliano, il sindaco di Bari, che è molto poco, come dire... Non se lo calcola nessuno, nemmeno nel suo partito. E quello è il guaio. Perché non hanno, sono molto conservatori, non hanno capito che Emiliano è più avanti di loro. O l'hanno capito e per questo lo tengono ai margini. Emiliano è una risorsa importante. Perché? Perché per esempio dialoga molto con De Magistris, altra imprevista risorsa, chi avrebbe potuto pensare? E De Magistris si propone... come rappresentante, come... Che è il più mediatico di tutti quelli che hai nominato, degli altri ci sono immagini e oggi questo conta, e se stanno fuori dai media, stanno fuori dal circuito, dai dibattiti, dai salottini, dai porta a porta e via dicendo, evidentemente c'è ancora una carenza di presenza, perché questo io non lo considero un limite, lo considero una capacità di proporsi. Guarda Renzi, lo ripeto perché oggi è personaggio, ha sfighettato in tutti i salotti per un paio d'anni e oggi logicamente è considerato come il leader. Il leader è un possibile catalizzatore di forze nuove, i giovani, anche se ormai viaggiano tutti sui 40-50 anni. Giacomo. Sì, buongiorno. L'argomento diciamo è di grande interesse. Sì. Per me che sono... Lo dica un po' più convinto però. Se no. Diciamo, per tanti, immagino, conterranei. Mm. Sento il mio eco al telefono, quindi mi scuso. Deve spegnere la radio, così non lo sente più. Ecco. Pronto? Ecco, adesso lo sente ancora. Ah, perfetto. No, l'ha accesa, deve spegnerla. Ma ha un auricolare per caso? Sente con un auricolare? No. Ha la radio accesa? Sì, ho la radio accesa. La spenga? Sì. Ecco, adesso. Solo che non vi sento più. No, il telefono mi deve sentire. Esprima velocemente il suo parere. Sarò breve. Sì. Viste le condizioni sarò breve. Dico, quello che un po' mi fa saltare, ecco, dalla sedia, ecco, quando leggo di queste pubblicazioni di cui si è parlato tanto, peraltro, del primo libro e del secondo, diciamo, del signor Aprile, è che non credete che ci sia bisogno di scrollarsi di dosso, diciamo? Io credo che siano queste cose che noi siciliani ormai conosciamo. Senta, io scusi, non vorrei essere cattivo, ma mancano 2 minuti alla fine, voglio concludere con Pino Aprile. La sua flemma, che molte volte anche simpaticamente indicativa anche di una condizione geografica e regionale, in questo momento mi porterebbe via gli ultimi 2 minuti che invece voglio dare a Pino Aprile. La sua domanda non era chiara e posta. Aveva molto tempo a disposizione questo signore. E la flemma di questo signore, la tranquillità di questo signore, la sua poca interesse a essere immediatamente incisivo, non è uno dei limiti a tutto quello di cui stiamo dicendo per cui diventi realmente un fenomeno nazionale? No, resterei alle personalizzazioni, ognuno ha il carattere e i ritmi che ha, quindi no. La verità è che io, diciamo che lo spero, mi sembra di vederlo, voglio sperare che non sia perché lo voglio vedere, e che quello che nasce non sia un qualcosa che sappia di sud, ma sappia di equità buona per tutti. Lo diceva Salvemini. Il problema non è compensare il sud per le infrastrutture che non sono state fatte, ma farle ovunque in Italia siano carenti. E non mi interessa sapere se è sud, Alpi, Padania o altro. Staremo a vedere con Pino Aprile, ripeto, giù al sud, perché Terroni salveranno l'Italia. Ancora rimane un punto interrogativo, lo vedremo, anche perché il momento comincia a essere adesso. Le cose stanno cambiando in questo momento. A domani. Salve. Melog 2.0. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.